Guarda quanto s'approssima il giorno che non ci si può sporger più in là, e bisogna che togli di torno chi a te esser simil non sa. Guarda quanto è fonda la notte, non ci sono che lupi oramai. Tu da solo ti farai giustizia, anche se luce non ne vedrai. Guarda quel fuoco che s'alza davanti, brucia ogni cosa che voce non ha. Guarda le fiamme che s'alzan d'intorno, in ogni campo un nemico ci sta. Guarda quanto rigoglio di roba, occhi gonfi di specchi e irrealtà, cuori pieni di vuoto e paura, mano che tutto consumerà. Guarda il marchio dell'uomo nuovo, testa alta e fierezza gli dà, brucia il senso di un tempo sbagliato, lava colpe che lui non ha. Guarda quel passo dell'oca che avanza, in vesti morbide e così charmant. Guarda quell'uomo che ride da squalo, sta digerendo la sua civiltà. Guarda che bello questo giro tondo, che la terra cascare ormai fa. Guarda che rotola in un precipizio, con gli occhi chiusi a questa immensità. Spalanca il mondo e cade nell'aperto, la bocca si apre muta al suo deserto, e si spalanca il mondo in viscere e parole versate e messe a seccare al sole. Si versa il sangue sparso, si aprono le vene, si perde tutto ciò che ci appartiene. Si versano le lacrime, hai lacrimato troppo, si spalanchi la luce nel tuo occhio. E orbite e fuochi e atomi innocenti inclinano ad ignoti movimenti, e l'universo è solo un attimo d'incendio, inclina il cuore all'ultimo dispendio. E non c'è mai scampo allo spazio aperto, accoglie il sangue il prossimo deserto, e vive il sangue un nuovo ricambio di stagione, il cuore ha la sua rivoluzione.